alle 6, oggi l'ho accesa alle 6, l'altro giorno l'ho accesa alle 5, 4 e mezza, ma sempre fino alle 10, 10 e mezza, non di più. Vabbè. Solo che devi stare sempre attaccato a farlo, mamma mia, una paranoia. E poi col pellet come fa, non te lo porto? No, ma se lo già prendo, me lo già portano. Prendo io 5 sacchi e mi dura anche una settimana e mezzo, dipende da come la usi, infatti non c'ho il posto, ma li prendo, me la metto nella stanza del Calvario, c'ho la pedanina, li lascio lì, quando mi serve vado, me lo prendo, lo svolto, ma è facilissimo da fare. Ogni settimana c'ho l'aspiraceneri, attacco l'aspiraceneri e pulisco il cestello. Capito. E a prodotto ce n'era uno che se ne prendeva una pedana di pelle, te la portavo io, una pedana intera, se la metteva nel garage, c'aveva una pedana, io gliela lanciavo da furgone e lui se la sintava. No, ma a me non mi conviene una pedana già, perché ne uso talmente poco che poi si non va bene, capito? Lo prendo a 5 sacchi e 5 sacchi. E mi dura tutta la settimana, quindi non ho problemi. Adesso ne avevo preso 5, già 2 li ho consumati, ne ho altre 3, figurati, non c'è problema. Dai, vi lascio un secondo che vado a controllare. No, già, io ho il timer, da quell'ora appiccio il timer e si accende da sola, solo che per il primo momento devo controllare la temperatura, capito? Perché parte al massimo e poi la stabilizzo io, la metto a 1, adesso la metto a 1, se no poi c'è troppo caldo e basta, no? Non ce n'è molte manovre da fare, no? Dai, riprendete, arrivo subito. Avanti, Carlo. Sì, no, io già sono molto pratico qua, perché praticamente ho la caldaia che è collegata col gas di città, gas aria propanata, però da marzo-aprile passiamo al metano, quindi dovrei pagare anche meno, ma io guarda, l'impianto di riscaldamento lo accendo solo quando sono a casa, essendo solo, e quando sono a lavoro ho l'applicazione, entro perché c'ho il cronotermostato digitale collegato col wifi, per dire se esco alle 10 di notte, io cosa faccio? Alle 8 lo accendo e faccio spegnimento alle 10 e mezza. Io arrivo a casa che trovo tutto caldo, però l'impianto è già spento, capito? Mi riscalda bene la casa, tanto pulso un'oretta alla TV e vado a letto. Quindi spendo pochissimo anche di gas, capito? E quando passeremo al metano poi ci sarà da spendere anche di meno e è meglio così. Vai Marco! Vabbè, il metano ti dà una mano. È una figata però, cioè tu sei ancora a lavoro, puoi accendere il riscaldamento, torni a casa ed è già caldo, bello. Poi per le temperature io, per esempio, io vabbè, uso la stufa a gas in camera di solito, no? Dove sto me l'accendo. Quando arrivo alla soglia dei 20 gradi io la devo spegnere perché non la tollero più, proprio è come che mi mancasse l'aria, anche se il locale è bello aerato, la porta aperta, io le soglie dei 20 la devo spegnere. Sì, se no ti secca anche troppo l'aria e brucia ossigeno, eccetera, quindi meglio che i locali siano aperti ogni tanto e fa circolare l'aria. Certo che poi se stai parecchio seduto, tipo alla radio, no? Io a volte ci faccio anche un paio d'ore, stando fermo un po' ti prende il freddo, capito? Ma il mio è anche abbastanza soleggiato, la mattina c'ho sempre tutto il sole sino al dopo pranzo, capito? E quindi la temperatura rimane sempre intorno ai 20 gradi durante il giorno, senza riscaldamento. Poi quando attacco il riscaldamento va a 22 gradi e mezzo, capito? Ma lo sto accendendo massimo 3 ore, non di più, e a me basta e avanza. Figa. Poi vabbè, io sono vestito come se dovessi uscire, no? Jeans, ho una maglietta sotto, una camicia felpata e poi una felpa sottile però. Sai, io butti la mondezza, bussano, eccetera, quindi come che fossi pronto a uscire, a parte la giacca. Per me, sì, io soffro il caldo, soffro molto il caldo, per me l'estate è diventata una tortura, mi dispiace. non sono riuscito ad andare al mare, una volta sono riuscito ad andare, però era troppo impegnativo. Va bene, già ne riprendi. Sì, c'è anche Sampi e Antonio. Antonio, riprendi tu, dai, che si da un po' che non sta parlando, vai. Boh, Antonio, non si sente più. Sampi. Todos muertos. E va bene, anche io faccio così già, certe volte mi chiama mamma o questo o quello. Alla fine non riesco a stare in radio per fare una serata di così di modulazione. Sono sempre arriva, torna, esci, cucina, bagno, coso. E non fa stare in ruota, capito? No, non ti ho capito, ci siamo sovramodulati, vai. No, scusa già, ho detto che io lo stesso mi assento sempre, o mi chiama mamma, o devo andare in bagno, in cucina, quindi non fa stare in ruota fisso, ogni tanto scompaio, ve ne sarete accorti, ma anche Antonio, vabbè, c'ha il bambino piccolo, quindi gli darà un po' da fare. Ma siamo comprensibili, noi le capiamo queste cose, non è che non le capiamo. Se non ci sei, se non rispondi è perché lo so che sei per tua madre o perché stai facendo qualcosa, lo sappiamo. Ti rispondo come Paoletto, tu sì che mi capisci. Non fa il gioco della calza. Buonasera, per un saluto. Ehi Gabi, ciao, buonasera. Ciao Gabino, ben entrato, mi copri con miseri 3 watt. La voglia qua, vabbè Gianni qua mi arriva quasi con lo scala, 9,20 a picchi positivi, e tu Marco sei 9,15 a picchi dai. Va bene, sono entrato, dai, oggi stavo un po' spazzolando e dato due voci a quelli dell'11, a quegli americani dell'11, quei miserabili, li ho sentito e ho detto adesso entro a salutarli, dai, vai Gian. È fatto bene Gabi, controlla a vedere se è aumentato il segnale Gabi, se tu che lo puoi fare che c'è gli apparecchi più professionali. Lascia portante bianca e poi parla. Adesso guarda, 1, 2, 3, 4, 5. 9,45. 9,45. Fai da 9,40 a 9,45. Capagala. Va bene, dai. Ho alzato anch'io. Vai Carlo per Gabino. Ciao Gabino, buonasera, buonasera, ben sentito. È fatto bene entrare a salutarci, dai, ci fa sempre piacere. Quando si aggiunge una chiacchiera in più è sempre meglio. Qua mi sta arrivando tu, Santiago 7, ma io sono un po' con un antennino piccolo, Tranquillo, tranquillo, il segnale no, non è che... L'importante è che mi ascolti di radio, dai. Sì Marco, ho aumentato anche tu qua, sei 9,20, 9,20, 9,25. Fai da 9,20 a 9,25 a picchi positivi, quindi. E la radio è ottima, anche tu Carlo. Mentre a te ti ascolto S8, 8, 9, la radio lo stesso è super. La radio è super, va bene. E quindi così, dai. Tempaccio. Carissimo Gianni, c'è un tempaccio. Oggi, non lo so come siamo messi, però adesso da mercoledì, da dopodomani, preparatevi ancora per le antenne perché entra una bella ponentata, eh? Vai Gianni di nuovo. Ma io c'ho nove tiranti, capi? Spero che non me li spacchi tutti. E beh, poi hai risolto, hai regolato quell'eco. Ma posso salutare o devo fare la vaganti? Qui, e beh, frate come? Bella e ben sentito, Sparvier, buonasera. No Gianni, non ho combinato niente perché ho fatto venerdì, sabato e domenica fuori lavorando, quindi non ho fatto proprio nulla, la radio è passata in secondo piano, quindi abbiamo fatto, non ho combinato proprio niente già, magari qualche giorno che decido ti chiamo e ce ne andiamo in qualche canale e facciamo e mi dà un po' le tue opinioni. Vai Sparvie, buonasera e ben sentito, avanti per te, Mike tuo. Ciao Gabino, fratello mio, buonasera, ben ascoltato. E se no per quanto segnale alla grande senza problemi, io ho già tutti con i lineari, allora attacco il drone, ma non lo faccio stare, lo lascio, non saremo benissimo, capi? E se no per radio Super 5, io sono col gemello del tuo, piccolo, l'ho spento poco fa, l'ho fatto un po' andare, adesso ho attaccato l'altro, 44, l'Aran 44, non ho cagli, brulito, e poi ne spegniamo tutti e andiamo a vederci la televisione, cambio. È il positivo, fratello. Sì. No, qua, 9, io qua ti ho 9 più 5, 9 più 10, se ha picchi positivi, quindi no, dai, io ascolto bene tutti, non ho problemi per le ricezioni, le radio sono fantastiche, quindi anche Carlo, nonostante mi abbia detto che abbiamo un'antenna piccola, però anche Carlo è alla grande, perfetto. Ottimo come sempre, il binario ottimo come sempre, il binario 10. E quindi è così. Vai Condor. Sì, avevo aumentato anch'io per migliorare. Ma ti stavi lamentando degli splatter anche tu degli americani. Qua era una cosa allucinante. Se hanno una larghezza di banda allucinante, sembra un radio broadcast. E non è questione di selettività dell'apparato. Fanno casino loro. Se stavo facendo delle Rosso 12, facciano delle prove di ricezione. C'era uno che arrivava a 9.30 mi stava sbatterando, io sul 12 e lui sull'11 in AM, io sul 12 in banda laterale, lì a Serra Bravo mi stava sbatterando, cioè fanno paura, io non lo so, va bene che ci si metta anche la propagazione a fare le sue, però infatti non lo so se mi avete sentito, infatti dicevo low power America, alla fine glielo ho detto che erano maledetti e poi io stavo facendo altro, dai. Va bene così, ci sta anche questo, anche quella è frequenza, Marcoli, non ci può fare niente, magari noi adesso stiamo disturbando a qualcuno, però ci sta, ricordo episodio si ribiglia, vai Gianni. Allora, gli splatter sono come i dolori, chi se lascia li tiene, comunque loro minimo usano 1000-1500 watt, è normale, hanno avuto sempre la malea della grandezza gli americani in tutto e per tutto. Sì, ci sta, lasciali fare se non fanno peggio già. Quando non si può parlare, prendiamo, spegniamo tutto e ciccia. Va bene così. Fratellissimo, vai tu, per il cambio per te. E a Luca mi, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Ma tu immaginati che avevo 140 poco fa quando c'era gli americani, me ne splatterende, a giumai non ti di nulla. Ho detto vai in mamma, come pare dice Guberni, sono passato al 440, la stessa cosa, uguale. Micidiali, 9.30, 9.25 di segnale. 9.30, 9.25. Allucinante. Allora, mi sembra aver sentito a Luca che ha fatto capolino, quando ha terminato, ha mollato Gavino. Se sei tu, vieni avanti con la buonasera. Ci sono io, Gianni, Marco, Carlo, Antonello e Gavino. Gavino Joker, vai Luca, se sei tu. Luca da questa parte, buonasera a tutti. Sì, so chi c'è in ruota perché prima di entrare mi ho fatto i miei 5 minuti di ascolto. Sì, effettivamente sono andato per curiosità sull'11 e stanno arrivando questi americani, ma chissà cosa pagano di bolletta quelli lì, già le scirò conto. Sì, non è questione di scirò conto, come ha detto Johnny W. Room, purtroppo in quell'ambito lì delle trasmissioni gli americani non c'è niente da fare, hanno questa mania della potenza, quindi usano anche i 27 dei lineari allucinanti. E poi c'hanno delle antenne mastodonti che non è che usano antenne verticali come noi, sono tutti in direttiva, capito, puntate a nord, avevamo già la playa e quindi è chiaro che hanno una larghezza di banda, come dice Marco, allucinante. Ok, allora cambio per Carlo, avanti Carlo. Lasciamoli sblatterare, finiranno prima o poi. Stavo guardando le previsioni perché prima ho sentito qualcuno di voi, forse Gavino lo stava accennando, sabato e domenica. cieca, freddo, freddo, freddo, e quindi, e noi ce ne stavamo al calduccio a fare quattro chiacchiere, e mai si svela il freddo, lo lasciamo fuori. Ah, quindi un'altra passata di ventaccio. Mantenetevi le antenne, mi. Giovedì, all'ora di pranzo è previsto maestrale con punte con raffiche di 75 km orari. È la volta buona, mi. Vedrai che se ne vola questa. Vai, Gavi, le prendi tu e poi rilancia per Luca, così lo saluti. Sì. Buonasera Luca, forse sentiti per la prima volta, piacere qua a Gavino, diciamo periferia di Sorso, 9 km a est dalla città di Porto Torres, tra Sorso è l'ultima città, va bene così. Vai Luca con la buonasera, ben sentito, S9 più 15, Radio 5, avanti per te, qua ti rilancia Gavino, avanti Luca. Ciao Gavino, buonasera anche a te, è piacere di sentirti qua in frequenza. Sì, anche tu arrivi con una radio super 5, chiarissima, bellissima, è un segnale di 9 più 10. Il mio QTH è fine via l'Italia, inizio via Budapest. Perfetto, ottimo, dai, comprensibile al 100%, veramente complimenti e piacere per la prima volta, ben sentito. Rilancio a Gianni Doppiorun, poi farà girare, non so per chi, vai Gianni. Ciao Luca, lo rilascio a te il mic, quindi ne approfitto adesso per salutarti. Buonasera anche a te, e niente, dai, siamo tutti qui, tutti insieme, ora parliamo. Io sono ancora qua che vi sto ascoltando, Avanti Gianni, buonasera, ti abbiamo chiamato ma non le risposte. No, stavo finendo di cablare una ciabatta elettrica e quindi ho finito poco fa e niente, comunque la radio era accesa e vi stavo ascoltando, comunque rinnovo i saluti a tutti, dai. Kappa, dai, noi siamo qua, se vuoi, stai ruota. Avanti, Kappa. Ciao Gianni, profeta, ho l'antenna come la tua, ho copiato. Ah, hai fatto l'upgrade? Yes, ma già va bene, anche Gavino mi ha detto che mi sente bene, e Gavino è quello più lontano da me, e quindi già va bene, capito, come segnale, e non mi posso lamentare, visto che sono così in precarie condizioni, però dai, tutto sommato riesco a parlare con tutta la città, tranne San Pei che non mi sente e io lo sento bassissimo. Lo sento a me San Pei, mi faccio la matta qua. Oi, dai, sono contento che hai fatto l'upgrade, comunque va bene, dai, ma hai preso quella della LEM? Negativo, ho preso la Sirio A27, la più grande, capito, però già va bene. Va bene, ok, dai. Mi fa piacere che sei passato a qualcosa di meglio, dai, comunque, dai, fai girare. Certo Gianni, piano piano è sempre mezzorenne, piano piano spero di arrivare al tetto prima o poi. Ti prendi Marco? Vivi, se vuoi. Oh, Ciccio! Ciao, è bene Emanuele. Ehi, buonasera a tutti, dai. Buonasera a te, dai, avanti per chi vuoi. Dai, va, riprendila, ascolto. Cavagava, di poche parole stasera. Ehi, Marco. Ehi, già, io dovrei staccare un attimino. Ciao, Emanuele. Ben entrato. Mi faccio qualcosa qua, mi comincio a organizzare almeno mentalmente la cena, dai. Ci sentiamo, forse rientro dopo, forse no, quindi ritenetevi super salutati, ok? Io rilancio Gavino per i saluti a Emanuele. Yes. Anche io chiedo permesso di QRT, perché qua si cena presto, quando siamo tutti a casa si cena presto la sera. E va bene, quindi dai, piacere per le, diciamo, per le quattro chiacchiere. Io quando posso mi faccio sentire. Cordialità e saluti a tutti, un abbraccio, dai, permesso di QRT da parte mia, 27075, ampiezza modulata. Joker vi saluta, vai fratello Sparviero, noi ci sentiamo in prossimità in prossimità telefonica. Vai Claudio, di nuovo salutone a tutti, chiudo, ciao. Ciao Gavi, un abbraccio grande, saluto a tutti a casa, già ci aggiorniamo telefonicamente, lo faccio girare per Gianni per i saluti e poi a girare per tutti. Ciao Gavi, buon curetti e buon continuo serata, dai. Buona cena quando la fai, ci sentiamo alla prossima, avanti in casa. Ciao Gavino, grazie del QSO, ce la risentiamo. Ciao Emanuele, già ti sento, basso basso ma ti sento, buonasera, ben entrato. Ciao anche a te Luca, ben risentito. Vai Luca. Ciao Gavino, alla prossima e ci sentiamo, speriamo presto. Ciao Carlo, niente. Qualcuno che deve salutare, fate voi. E ciao Marco, allora se hai staccato, se non rientri, salutoni e ci risentiamo. Ciao Marco Condor, dai, se vuoi rientrare poi puoi rientrare, non c'è problema. C'è anche Antonio, ma è scomparso. Antonio, sì. Ma noi tornavo a fare cosa? Non lo so. Ciao nuovamente a Gavino, ciao anche a Marco. Avanti Luca. Claudio, una di queste sere dopo che esco dal lavoro devo andare a bermi una cosa, un caffè con il nostro amico comune. Se ti fa piacere ti facciamo uno squillo. Chi ci mancherebbe altro? Anzi, adesso mando un messaggio che non ho sentito per niente. Beh, certo che sì, già lo sa l'amico nostro. Fatemi uno squillo e vi raggiungo, non c'è problema. E anzi, lo facciamo sapere in anticipo come ci mettiamo d'accordo. Cappa, lui, non ci sono problemi. Se Claudio, Luca ha il tuo numero, lo autorizzo io. Claudio, se hai il mio numero mandaglielo a Luca, che l'altra volta mi sono dimenticato. Ma non lo so se Luca c'ha il mio, ma se con quell'amico mio già fatelo dare direttamente da lui, o se no chiamalo e te lo fai dare il numero, capito? Non c'è problema, fatelo mandare con Luca, così ce l'hai. Vabbè, quando ci vediamo tutte e tre assieme ce lo scambiamo, magari mi dai anche quello di Carlo. Esatto, non ti preoccupare, non c'è problema. Quindi siamo in contatto anche per il sabato e la domenica, visto che vai nello stesso posto. Ci vediamo per un caffè, capito? Ok, quindi a chi tocca? Gianni Profeta, vai. Eia, pensavo che mi avevate dimenticato, lui. Oggi c'è abbastanza traffico, vabbè, adesso magari Gavino ha chiuso, lo saluto uguale, dai, alle prossime. Ben copiato e sentito, qua i treni sono a singhiozzo, in compenso abbiamo di nuovo i pullman sotto casa a rompere le palle, gente biglietieva, non c'è una pensierina, pacari dai, città metropolitana, una vagonia. Dai, riprendo io, Gianni Profeta, qua mi sta arrivando 9 più 20, ma con picchi positivi, quindi sei a 9.30, radio Super 5, ti sento benissimo. Super 5 GT Turbo, bene, dai, la mia piccola barracca se la svanga alla grande, dai. Va bene. Manuele, ci sei ancora? Sì, Gianni Profeta, ecco qua, Gavino. Ciao, buonasera, ben sentito, forse per la prima volta. Ti do anche a te se sei interessato, il tuo rapporto qua vicino a me, 9 più 20, radio 5, avanti di nuovo. Caspita, grazie Gavino. Adesso non avevo gli occhiali e non ho avuto modo di vedere il tuo Santiago. Comunque la radio è ottima, come quelle che piacciono a me, e niente, dai, ricambio i saluti e niente, anche io tra poco scappo, quindi faccio direttamente i saluti, dai, saluto tutta la ruota, compresa quella di scorta, e niente, dai, ci sentiamo le prossime occasioni, buona serata a tutti, dai, ciao ragazzi, fate la bravi. Ciao Gianni, ciao, buona serata, buona cena quando la fa. Ciao Gianni, alle prossime, quando vuoi entra sempre a salutarci, già lo sai. Manuele, ci sei? Riprendi tu Luca. Io sto mettendo un po' di ordine nel mio registro di dove mi hanno tutti i nomi, i nomi della stazione, la zona, i segnali, e ora mi sto facendo un programmino, un foglio in Excel dove ordino in ordine alfabetico per nome con tutti i commenti del caso, così quando parlo con qualcuno mi ricordo di cosa si era detto, chi era, dove modula, eccetera. Ecco, buono, me lo farò anche io, perché io mi stavo annotando tutto su un quaderno che ho qua nel cassetto, e però ho capito, siccome tengo sempre il computer acceso qua, è un attimo a entrare, aprire il file, ti controlli tutto e subito il riscontro bello illuminato e grande soprattutto, e non ti devi mettere neanche gli occhiali. Ottimo suggerimento. Anche io ce l'ho il registro di stazione, però ce l'ho cartaceo, però non lo so più far accedere, mi sono stufato, ne ho fatto per un po', mi segnavo più che altro di ex che facevo, e poi vabbè, mi ha stufato un po'. Beh, immagino che tu Gianni ne abbia segnato a uffa di colleghi, di amici e di ex che hai fatto, e quindi è ovvio che poi alla fine c'è la tendenza un po' a essere più snelli, capito? Certe cose le tralasci, però dai, sempre può essere utile. Ma io vado a fare queste nessuno fuori, ne ricevevo, ne mandavo queste L, mi mandavano monetine, mi mandavano sotto bicchieri della birra dalla Svizzera, avevano mandato i sottobicchieri, insomma, prima si facevano le QSL ed erano soddisfazioni quando arrivavano, capito? Tu figurati Gianni che per voi non è obbligatorio, tu lo sai a me se mi trovano, se tra il log con tutte le comunicazioni, tutto quello che dobbiamo scrivere eccetera, ci ritira la licenza. Lo so, voi dovete annotare tutto. Io ho un controllo all'improvviso, se mi fa vedere il log, non ce l'ho, oppure non ce l'ho aggiornato, come mai non l'ho aggiornato? Capito? Per me è una grande rottura di balle, credimi che è una grande rottura di balle per me. Infatti io ho pochissimi collegamenti, pochissimo uso di HF, proprio per non stare a scrivere, a fare eccetera eccetera, però anche in diretta, in voi nudi, devi annotare, però siamo lo basco lo bravo oramai, quindi si va bene luci. Ciao Gianni il Profeta, se mi stai ascoltando, mi sono allontanato un secondo, però stavo messaggiando con un amico. Il Mike a chi tocca? Chi c'è rimasto qua? Luca, Gianni, Carlo, io, gli altri sono tutti usciti. Gianni, e c'era anche Antonello, non l'ho più sentito, però Antonello ci sei ancora, Marco è andato via, aveva da fare. Marco, vabbè, Marco si è allontanato, già sentito, ok. Claudio Sassali. Comunque adesso siamo Claudio, Gianni, c'è Luca, chi c'era? Gavino ha chiuso, Gianni l'altro Profeta ha chiuso, Manuele è entrato un attimo, poi non l'ho più risentito, capito? Riprendi Gianni, dai, doppio rumo. Fra poco devo andare io. Che ore sono? Le 7:20 sono. E ieri ho voluto scendere prima al carico. Non so perché, a tutti i costi ho voluto scendere prima. E l'abbiamo accontentato, bisogna sempre fare ciò che vuole lui, se no si adira. Io stasera ero in compagnia lo stesso, cioè avevo il cagnolino di mia figlia, sono venuti a pranzo mia figlia e mio figlio e hanno portato la cagnolina, Baciottino, capito, ma è così curiosa, adesso c'ha quasi 5 mesi e quindi è ancora giocazzata, capito, ha mangiato qua anche lei, avevo comprato quelle scatolettine, gli ho fatto un po' di riso, capito, ci ha leccato anche i baffi poi alla fine. Più sarà quella roba lì da dargli che le crocchette che ho visto. Mi hanno detto di prendere quello di uno sfero, ci ho buttato un sacco di crocchette da 12 kg. Ce l'ho tutte buttate perché su internet è uscito che c'era questo additivo che avevano messo, si era formata una muffa che faceva malissimo i cani, li faceva morire addirittura, li faceva vedere tumori, li faceva. Ho preso il sacco nuovo, ho preso e ce l'ho buttato via. Un attimo, buonasera, c'è uno sta 3 ore chiamando, Comasino, Gianni, mi senti? Ma voi riprendete a ping e poco. Quindi, avanti, scusate gli amici, vuota, saluto in circolare anche Claudio. Avanti l'amico basso che chiamava. Buonasera, mi ascoltate almeno. Io sì, ti ascolto abbastanza forte. Gianni, lo ascolti? Sì, lo ascolto, lo devo fare entrare io adesso, come finiva Carlo, perché Carlo ha ripreso, quindi non ce l'ho fatta a farlo entrare. Buonasera. Ciao, buonasera, Vanino Sosso, giusto per salutarvi, ma vedo che fate bingi bong con Clario, però già è sempre stato un po' prepotente, ma comunque vabbè, lo scusiamo. Ascolta, Vanino Luigi Osso, se io non ti ho sentito, come faccio a farti entrare? A Clario, lo so, adesso sei passato in un'altra zona che insomma non è delle migliori, ma comunque va bene, giusto, mi stavo ascoltando, ma era giusto per salutarmi. Andare, capito Claudio, Gianni e poi l'altro basso basso non ho capito chi è comunque, là, comunque vanno in assorso, dovresti, vabbè, ascoltare perché sto sfuggendo un po', comunque va bene così. Gianni, riprendi, mi dici chi è l'altro che mi è sfuggito. Può essere che sia Carlo, non lo so, Carlo, prova a parlare con Vanino a vedere se si tu. Non ho capito Gianni a cosa vi state riferendo, perché stavo un attimo leggendo e ho capito che è entrato Sanpei, ma non l'abbiamo sentito, ovviamente non l'abbiamo fatto entrare, io non lo sento. No, non è Sanpei, Vanino di Sorso e ha detto che ne sente uno basso, non capiva se eri tu, capito? AK, Vannino, buonasera, buonasera Carlo da questa, non so se mi senti. Vannino, hai sentito? No, adesso in questi passaggi no, prima sì, prima riuscivo a sentirlo, adesso invece no, niente, si è passato il segnale, io non so quanto arrivo a voi, ma vabbè, di più non posso spingere. Da sottare cancello, vittimo l'origani, Ciao Vanni, mi senti? Vanni, esci da sottare cancello, vittimo l'origani, Ma invece io per mezzo, Vanni. Vabbè, là, posso tirare un altro po', ma lo lascio così. Lo... Ciao Tonino. L'antenna. Ciao Carlo. Vabbè, capito. Pensavo mi sa Carlo. Parla e niente, vabbè, là, lasciamo stare. Comunque buonasera a tutti. Comunque dicevo già, no, prima l'ho sentito, perché mi ha detto che ero lì, che chiamavo prima, forse mi ha sentito lui e voi no. Però adesso si è abbassato il segnale, faccio fatica a ascoltarlo, proprio è bassissimo, ma incomprensibile comunque. Così, vabbè dai, ho messo a posto il microfono, l'altro giorno sto approfittando a usarlo, almeno lo uso e insomma va bene così. Non so se è troppo forte, se è poco forte, poi me lo direte al prossimo passaggio. Vabbè, dai, riprendi Gianni e poi fai girare. Aspetta. Tanto al lo sento proprio, devo tirare per l'orecchio. Scusate, Vanino, lei mi senti che ti ho fatto entrare io? Sì, però sei bassissimo, sei giusto a livello comprensibile. Non lo so se è la mia antenna, è un po' di tempo che non la uso, quindi tanti anni. Sto aspettando il bel tempo perché ho abbassato anche i tralicci e quindi devo ripristinarmi i cavi e poi faccio controllo generale. Vediamo bene, però il tempo non me lo permette ancora. Capito Claudio com'è? Io già ti ho capito, sì, io ti dicevo quasi 4, la modulazione è abbastanza comprensibile, va bene, purtroppo la mia zona è questa, va bene così. Non so che dirvi, l'importante è ci sentiamo. Vabbè, ok, c'è stato anche Cappolino di Gavino di nuovo. Gavino, volete prendere? Ha giudito a Vanino, è scelto da danza lo Vangelo, quindi mo lo vegani. Vabbè, però a noi c'è un po' più vicino e forse le Natali ancora meglio. Se ti occorre una tirata di montile, se tocco la fionda ti prendo alla finestra. E ci sei, tu sei sotto lo cancello mio, metti molto i cani. Dai, tutto in HI. Ciao Vanni, buonasera. Riprendete, vai Vanni, pure rilancio per Claudio. Sì, vabbè, ripeto, no, non ho avuto modo di ascoltare quello di prima, quello che ha avuto modo di farmi gentilmente entrare, quindi non so se comunque non lo sento più, già. Riprendi, dai, puoi far girare per Claudio. Però un altro passaggio ancora, perché sono sceso qua per fare delle cose, 5 minuti giusto per spolverare le apprecchiature. Va bene, riprendi Gianni. Sì, dai Vanni. E io come ti sto arrivando di segnale, Vanni? Guarda, sì, intorno al 5, comunque, come sempre, comunque il segnale così. Io sto usando comunque un baracchino adesso, usando un Connex 3600. Vabbè, io sto uscendo con pochi watt adesso, e c'ho 3 watt. Claudio, dimmi. Questa è la stessa cosa tra te e Sapri, che tu Sapri non ti sente. Chico addirittura che la giovane entrata dice non mi intendi. Caso strano, io per sorso sono positivo, vabbè, lui c'ha problemi lui in testa, che è un bel strano. Come se è arrivato Santiago non per lui, pensa un po', è reso 5. E vabbè, comunque, non mi importa più di tanto. Mi sento, non mi sento, bene, se ho pazienza, io non ci posso fare niente. La mia posizione è questa e arrivo abbastanza bene tutte le parti. Oddio Pio, va, riporta che mi sentono. Stai calmo. Vabbè, però non facciamo questo. Ho sentito Carlo, vai Carlo, non so se mi sta rilanciando a me, l'amico di Sorso, chiedo conferma e poi rilancio Luca. Quindi è dovuto però ti ho capito, sì. Senti, non mi senti, no, adesso sì, ma il passaggio precedente dopo che sono entrato non ho avuto modo di, cioè era un po' più basso, adesso sì, intorno al 2 di segnale, a radio compressibile comunque. Sì, vabbè Vanni, ma lei anche nel tuo c'è il disarmo, vai, è un problema. Tonino sai dove sta trasmettendo, però dove San Camillo ce l'hai davanti, quindi è un problema di ricezione, perché io qua il primo periodo che sono arrivato ti sentivo 7-8, adesso sei 3, quindi è un problema di tuo di antenna, tuo di ricezione, capito? Anche a me mi dovresti sentire bene, non è che siamo uno di fronte all'altro, c'è la collinetta di Filighiddu da superare, ma la supero tranquillamente, quindi non c'è problema. E noi facciamo la polemica, l'importante è ci sentiamo e non tutto si può avere nella vita, dai, non polemizziamo. Il cambio per Luca che è rimasto un pochino in parcheggio, vai Luca. Capo, l'amico di Sorso mi arriva a me con un segnale di 7-8, però la radio è molto bassa in mezzo al QRM e in mezzo a dei rumori, sembrerebbero i cicalini di retromarcia di un carrello elevatore, non so se ho reso l'idea, e in mezzo si sente la sua voce bassa, io non so se lui riesce a copiarmi. Sì, tieni conto che il microfono non è dei migliori, perché comunque è tanto tempo fermo, sì, ti ascolto sul fono, ma ti ascolto radio e basta, ma comunque riesco a sentirlo. Vabbè, comunque non c'entra niente, poi sono le condizioni di lavoro che cambiano sicuramente, ma comunque è importante sentirsi. Ok, riprendi, dai, così vedrai anche che sei, perché non ho avuto modo di sapere il nome, ok, così me lo dici al prossimo passaggio. Ok, per te il microfono. Luca, stazione Floppy, fine di Viale Italia, Sassari, cambio. Ah, ho capito Luca, va bene, insomma, guarda che già è tanto arrivare qui, perché io sono a Sorso Vecchio e sono al centro, quindi non è che sono in una zona, e poi ripeto, ho le antenne tutte basse, quindi va bene così. Brecco. Va. Sì, buonasera, no, vi stavo ascoltando da parecchio, ma c'è qualcuno che si sta divertendo a mandare portante, non so se ve ne siete accorti, mette dei segnali strani, rumori digitali e cose del genere. A quanto ha detto Luca, che sentiva questi, diciamo, tipo segnali tipo quelli che emana il muletto quando manovra, probabilmente è questo. Allora, passate tutti, ciao Vanino, ti ascolto 9 qua, non senza nessun problema, però c'è qualcuno 9 e 10, arrivano questi colpi con questi rumori strani, si sente proprio la portante, la mette sopra, non li fate, non vi fa niente a nessuno, saluto anche a Gavino che arriva spettacolare, un segnale della paura, e la modulazione non ne parliamo. C'è l'altro Luca che ci siamo sentiti qualche volta, Gianni, Claudio, poi non ho capito chi c'è oltre a loro. C'è anche Carlo e anche Vanino di Sorso. Sì, Vanino l'ho salutato, va bene, vediamo se mi ascolta. Ciao Vanino. Sì, ti ascolto, sei basso ma però ti ascolto. Forse ce l'ho io la radio che riceve poco ultimamente, non sapevo. Comunque ti ascolto. Ciao Roberto, buonasera e ben sentito. Buonasera e ben sentito. 9 più 15, 9 più 20, radio tua. Radio tua è... comprensibilissima al 100. Oh, Vanino, ho capito, sicuramente c'è qualcosa tu alla radio, all'SMTR della radio, perché io ho segnali di 2, 3, sto guardando, ma qua non ne vedo, qua non ne vedo, io sono proprio nella piana di Sorso, segnali io non copio nessuno sotto l'otto. Non copio nessuno, quindi è una cosa tua di radio, Vanni. Non me ne volere, però c'è da dire questo qua, perché non è neanche giusto che la gente va e si metta qualche problema che non c'è. Io qua segnali diciamo inferiori a S8-9 non ne ricevo. L'unico che non copio purtroppo è Emanuele, perché non ho mai copiato, però tutti qua superiori, ripeto, all'S8, S9, dai, e le radio sono tutte comprensibilissime. Vai Roberto, buonasera, ben sentito, però io dai ho mollato, in realtà avevo sentito, ho mollato, sono andato a salutarti, chiudo e non riprendo. Vai di nuovo Roberto, di nuovo buonasera a tutti. Ok Gavri, buona cena, scusa se ti ho disturbato, dai, ti sentiamo lì con calma. Comunque io sento sempre la portante, Gavino è quasi 9:20, qualcuno si diverte a mettere musichette sotto, rumori digitali e cose del genere. Lo passa Gavino però disturba. Si sente questo qualcuno che senza farlo, ma non so chi sia, e fa questi rumorini tipo soffietti, rumori digitali quando tu tocchi qualcosa di roba di computer, cosa del genere. Dai. Qua arriva quasi 9:20. Quasi il segnale di Gavino, cioè, gli altri non li fa niente, a Gavino un po' lo disturbava, mentre a Vannino lo annienta, perché Vannino arriva a 9. Avanti a chi tocca, Carlo che non ti ho salutato, risalutato, avanti ancora. Sì, ciao Robè, no, io a dire la verità questi disturbi li ho appena percepiti poco fa, ma adesso non li sento più perché stiamo parlando con i nostri segnali, evidentemente non ci oltrepassa, capito? Quindi io Gavino lo sentivo bene, arriva a Santiago 7 con picchi positivi, qua 8 pure arriva, e quindi non sentivo nessun disturbo quando parlava Gavino, capito? E gli altri idem, Vannino, quello di Sorso, niente, non lo sento neanche a bomba, nulla, non si sente, ho provato proprio a pizzicarlo accendendo anche l'altra radio, nulla, niente, non ce n'è, evidentemente in zona negativa. Ciao Roberto. Ciao anche a te Tony. Ma è possibile non sentito la portante? 9:10 qua arriva. Non ho sentito questa portante che hai detto, strano. Franco io Tony. Franco io che sono a un chilometro da Roberto. Probabilmente è vicino a Roberto. quando stavate parlando, a voi non vi fa niente, ripeto, siete talmente furti, però a Vannino lo schiaccia completamente, quasi 9:20, 9:15, la portante metteva le musichette, tutti i rumori tipo quei giochini per bambini, cosa del genere, qua arrivava molto forte, probabilmente qua vicino a me, non lo so, sanno bene che quelli per dire Carlo che è molto vicino a me, lo stesso Claudio dovrebbero ascoltarla, vabbè, non è successo niente, non ha disturbato a nessuno. E poi chi c'è? Mi sono dimenticato di qualcuno. Luca, avanti a te. Io no, importante, no, importante non è stato, se, non ne ho notato da parte di nessuno. Quando parlava lì da sorso sentivo questo bi insistente che non copriva ma rimaneva in sottofondo tutto il... Dai, adesso bimbi lo faccio io vi saluto, passo in QRT, anzi QRX perché la radio non la spengo mai, però non riprendo più, vado a vedermi un TG, mi sposto un attimino nel salone. Ciao Torino, Gianni, Luca, Vannino, Carlo, Gavino che è in QRX, insomma tutti quelli che siete qua su 10. Un saluto circolare a tutti, QRT per me, ciao ciao. Ciao, io faremo un QRT, saluto, ci sentiamo. Avanti Gianni. Ciao Claudio, dai. Con QRT e buona visione. Va bene, dai, vi saluto anche io. Faccio un saluto circolare a tutti che devo scendere col cane. Ci sentiamo, buona serata, buona continuazione e questione. Ciao. Ok, riprendo io, ciao Claudio, ciao Gianni, anche io rimangono un pochettino e poi mollo anch'io. Vai Vannino, che quello forse è un po' più difficoltoso da ascoltare. Luca, non lo so se vuoi salutare tu. Ripeto, ora 5 minuti. Sì, capa, ne approfitto e mi accordo a loro. Saluto chi sta uscendo, saluto chi rimane e anche io passo in QRT perché mi dedico un po' alla mamma e gli avvio la cena. Buona serata a tutti. E a domani. L'antenna va bene, ci sono funzioni. Più che altro vorrebbe tirarsi un po' più. Ciao Luca, buona serata, riprendi tu Robert. Signori, a tutti la buona serata, buon divertimento ancora perché rimane. Attenzione, stava parlando Vannino, l'avete schiacciato. Vannino, forse non ti hanno ascoltato, riprendi tu. Ciao Luca, comunque. Vannino, riprendi tu che forse non ti sentivano. Ci sei Vannino? Sì, sì. Probabilmente non ti ascoltavano perché hanno parlato sopra quando stavi salutando tu. Mi dai anche a me un controllo, come mi ascolti da quelle parti? Io di segnale ce ne hai, 6-9, qualcosina di più, però sei molto basso di radio, Vanni. Sì, guarda, il segnale 6-2, la radio è comprensibile, comunque più o meno si livella sul video lo stesso. Però vabbè, dai, io adesso voglio cambiare la radio per capire veramente se è questa radio che sto utilizzando che non ha una buona ricezione. Quindi lascia perdere il mio segnale, ripeto, perché guarda, ti faccio un esempio. Aspetta un attimo. Adesso sei calato a 7, però quasi non si capisce più. Scusa, chi è che mi ha chiamato? Che ero fuori cortile? No, hanno salutato Tony. Poi dopo ti dico qualcosa per la radio, ti sento diverso dal solito, Tony. Ma com'è? Friccio? La voce è strozzata, sembri dentro un bicchiere, metallica, non è chiara, cioè non è la tua. Mi sento bene. Guarda in questo passaggio, vado a vedere. Allora, io ti ascolto, comprensibile, però non è la tua modulazione. Si sente tipo quando parli dentro un bicchiere, una cosa metallica, molto riflessiva di tonalità. Io sto usando un microfono ultimo, diciamo, non Shure, quindi mi sembra strano. Ho aumentato, ecco, così. Questo passaggio ha cambiato qualcosa? Diciamo un po' più forte, sì, però allora ti spiego, la modulazione è chiara, la capisco, però non è la tua, non è naturale, una modulazione sembra caricata di acuti, mancano tutte le tonalità, tutto il basso ti manca, il microfono può essere eccellente, però bisogna vedere anche l'impedenza con quel microfono, con l'adattamento della radio, perché l'altra volta ti ascoltavo una meraviglia, adesso non per criticare, ripeto, non sta a me giudicare nessuno, però altre volte ti ho sentito meglio, facciamo riprendere gli altri, sono monopolizzo, vediamo Carlo e poi farà il riepilogo di chi è rimasto che ancora non ho capito. Sì, vabbè, molti sono andati via perché è ora di cena. Luca ha chiuso, Gianni doveva portare il cane, Claudio lo stesso ha chiuso, è ora di cena. Siamo rimasti io, tu, Roberto, Tonino, c'è Tonino e poi c'è Vannino di Sorso, ma io non lo sento. Scusa Roberto, ho passato ancora, come mi ascolti adesso? Diciamo un po' meglio Tonino, però ripeto, la tonalità sono troppo acuti, secondo me quel microfono su quella radio non è l'ideale. Prova se c'è qualche altro microfono per fare la prova. Che radio stai utilizzando? Prima di tutto voglio capire. Lafayette 2400 FM. Ma il microfono da Shure è naturalmente un microfono da tavolo. Cappa. Prova a lontanarti un pochettino. Più lontano di così, che cavolo. Tra dopo sarò buono a 60-70 centimetri. E prova a fare il conto, ma c'è regolazione di intensità al microfono, mi chi gencia? No, niente. E la radio? Guarda un po', questo passaggio com'è adesso? Ah, cacchio, adesso sei tu, Tony. Che cavolo, mi devo mettere vicino, mi devo mettere. Non so, la batteria è mezzo scarica, boh. Controlla la batteria, adesso sei tu. Beh, è aumentando così com'è la radio? No, no, troppo amplificata. Ti devi avvicinare un pochettino e diminuire l'amplificazione. Probabilmente controllate la batteria. Cappa. Vabbè, ho messo questo volume qua, dai. Così sono perfetto allora, dai. No, così sei tu, Tony. Infatti non pregiudicare, ti ripeto, a me ognuno fa quello che vuole, però ti ascoltavo in situazioni molto meglio di questo, di questi passaggi di prima. Adesso sei tu. Ok, meglio così, dai. Ok, ma insomma, non niente, mi ha fatto notare che era buono come radio. Tutto qua. Ok, grazie. No, il problema, Mario, molte volte con un baracchino ascoltando con l'altoparlantino piccolo non ci fai caso. Io ti sto ascoltando con un altoparlante esterno e con una radio un pochettino seria, dai, non dico niente di più, però una radio un pochettino più importante, dai. Ok, adesso va tutto bene, vediamo se Vannino c'è ancora. Vanni, se stai parlando ti ho perso di segnale, se poco fa eri molto più forte, vedo che si muove lo Smith. No, non sto parlando. Perché poco fa Vannino arrivava a 9 e il segnale è buono 9, però purtroppo c'ha l'amplificazione troppo bassa del microfono, non so che radio stia utilizzando. Ok, Carlo, di nuovo a te, mi sa che siamo rimasti io, Vannino se c'è ancora, Tonino e Carlo, mi sa non c'è nessun altro. Cappa, cappa, a me come mi senti di radio, Robè? Io lo devo tenere lontano invece, al contrario di Tonino, il microfono palmare, perché prima lo stavo mettendo vicino alla bocca e Marco mi ha detto che insomma siamo anche molto vicini, dice mi sentiva a tratti, mi sentiva troppo compresso, poi ho allontanato e ho risolto il problema. Adesso lo sto tenendo a 20-25 centimetri, dovrebbe arrivare anche a te bene la radio, a parte il segnale. La radio è spettacolare, perfetta, una telefonata, nessuna imperfezione. Quando sono entrato un'oretta fa, ti avevo fatto l'appunto, ho detto che stavi saturando, probabilmente eri troppo vicino, non so che cosa, ma probabilmente un'altra radio non è la solita tua, o sbaglio? No, questa non è nuova, diciamo, ce l'ho da oggi, è la K140. Me ne sono accorto, ho detto, sentivo lo stacco del microfono è diverso. Comunque ti ascolto, una meraviglia, ottima, molto bella, la modulazione naturale, per cui non possiamo dire niente. Prima non so cosa stesse succedendo, eri troppo vicino, non lo so, ci avevi leggermente degli strappi. Esatto, e Claudio infatti anche lui mi ha suggerito, tienilo più lontano, me l'hai detto anche tu, e così ho trovato la quadra. E quando cambi radio c'è poco da fare e devi cambiare un po' le abitudini di quella che usavi in precedenza. Guarda, io ti dico una cosa, io tutte le radio che ho, non ce n'è neanche una, a parte vabbè, una alla 48 che non sto usando da tanti anni, sono tutti da tavolo, non ho nessun microfono da palma, anzi sbaglio, quelle digitali DMR, quelle c'hanno microfono il palmarino, ma diciamo non li uso quasi mai, quelle lì sono radio così, per fare delle prove e basta. Se ti buschi il microfono, quello che ci siamo capiti, hai fatto un turn all'occhio tu con quella radio. E vabbè, poi al limite quello vedrò in seguito, da adesso che la sto testando giusto stasera, perché stamattina poi non ho avuto tempo, avevo gente a casa, pranzo e ho finito anche un pochettino tardi, e diciamo la sto riprendendo in mano da un'oretta e mezzo, dai, però adesso pian piano avrò modo. molto probabilmente anche un microfono da tavolo riesco a farcelo stare qua sulla scrivania. Devo vedere un pochettino, perché ho spostato la stampante, adesso ho portato l'alimentatore, quello più grosso, prima lo stavo toccando, è ghiacciato, è freddo freddo, è un 30-32 ampere. Ehi, l'alimentatore è sempre sovrabbonda, no? Ma più ce n'è meglio, Io ho quelli grossi, non hanno né ventola né nulla, sono di quelli lineari, quelli diciamo trasformatore, ma neanche il pelo li corica, sta lavorando al 10% l'amplificatore ed è molto molto grosso. Ok, e Tonino, riprendi tu, io ancora qualche passaggio e poi devo andare all'ora dei pavesini, come si suol dire. Io ho allungato il corpo, si allunga il pelo grigio col volume rosso, quello originale, quindi penso che non abbi fatto niente di male alzando questo collo, diciamo, del preamplificato. Un attimino, figlio dell'antenna. Ma lo penso, dai. Confermilo bene. Aspetta, c'è qualcuno, avanti che... Buonasera. Buonasera a tutti. No, ho un breccato, avevo. Buonasera Tonino, buonasera a tutti in generale, Antonio da questa parte. E chi non ti vede ti sente, a te Antonio, e tutto bene, ma cosa? Anche io mi sono visto segnale, ho detto questo mi sembra di conoscerlo. Non c'è il segnale di Carlo, però era un segnalone molto forte, ho detto questo è probabilmente è una persona che conosco, infatti non ho sbagliato. Ok, facciamo riprendere a Tonino per i saluti, a tu, io tu arrivi sempre quando me ne sto andando, con un paio di passaggi, vai Tonino e poi passerà a Carlo per i saluti. Capo, grazie per il microfono, perché anch'io devo chiudere, che voglio guardare il telegiornale che inizia tra poco. Tu entri più presto, devi entrare. Ok, dai, sarà per la prossima. Ciao Antonio di nuovo, ciao Antonio, faccio una Gabriele, ciao Carlo e ciao Roberto, state bene, poi proseguo a tutti, cuore tengo da parte mia, alle prossimine per domani, ciao a tutti. Ciao Torino, ci sentiamo alle prossime, ciao Roberto, grazie del QSO, ci sentiamo nei prossimi giorni, vai pure Antonio. Capo, ciao Tony, ce lo sentiamo. Vai pure Robè, perché forte ti arrivo. A parte arrivi forte, arrivi potente, non dico tanto il segnale è forte, però anche la radio non scherza. Comunque dai, saluto a tutti, dai, tengo acceso le serie, ho visto che si sta ripopolando qua il canale 10 ed è un piacere rivedere, anzi risentire le persone. Dai, saluto Antonio, Tonino che è andato via, e Carlo, come al solito anche a te è un piacere ascoltarti, e chiunque fosse in ascolto. Canale 10, e Roberto va in cuore di te. Ciao, ciao Roberto. Anche io adesso piano piano, non devo preparare la cena perché stanotte ho tante cose da finire da pranzo, e quindi diciamo non devo cucinare stanotte, me la risparmio, però un po' di appetito c'è a quest'ora. Non so se tu hai mangiato già, a te il microfono Antonio. Noi abbiamo già mangiato stanotte, due fettine di tacchino, cioè due per me, due per Gabriele, poi non ce l'ho neanche mangiata tutta, ma di mangiata io e via, niente di che, sino la notte troppo bizzante. Eia K, va bene, dai, un bacio a Gabriele e già ci sentiamo Anto, perché anche io vado a cenare, mi metto un pochettino comodo e poi mi guardo un po' di televisione, dai, ci sentiamo domani sicuramente. Buona serata anche a tutti quelli che stanno ascoltando, buonasera a tutti, vado a ricaricare le batterie Anto. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, comunque questo è il Cobra, ogni tanto accendo. Ciao, buonanotte a tutti. Ehi, grande radio, è sempre ottimo segnale, Anto. Gabba, se non ce l'ho io chi ce l'ha il segnale buono. Ehi, positivo. Ciao, buonanotte, chiudo. Ciao.